Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. Questa settimana vi faremo viaggiare tra l'Africa e gli Stati Uniti con due storie tra loro molto diverse anche per contenuti. La prima di un giovane geologo che ha scoperto come la penisola sia molto poco meritocratica, con carriere segnate e disegnate già in partenza, persino nelle grandi aziende. La seconda di una docente italiana negli Stati Uniti, assurta agli onori delle cronache per una scoperta scientifica di significativa importanza. Partiamo però dall'Africa, destinazione Angola. Nome: Luca. Cognome: Maggini. Età: 39. Città di origine: Montagna Valtellina, Sondrio. Studi: geologia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Africa. Perché? Per lavoro. Qual è il lavoro svolge attualmente? Operation Geologist. Dove? Luanda, Angola. Tornerai? No, perché la tipologia del mio lavoro al mio livello mi consente di lavorare solo all'estero. Nei un quanza nei mai senti lasciami lavare non ti nada pra mudar nada. Atmosfere d'Africa con la cantante angolana Ari Loka Soporti. Luca, inizio con te in modo diretto, anche perché la tua storia apre gli occhi su una gigantesca ferita della nostra cultura paese, lo scimmiottamento delle best practices estere che hai avuto modo di osservare in ambito aziendale. Anziché imparare per davvero le migliori pratiche straniere, ci limitiamo a scopiazzarne le forme e gli anglicismi, ma sotto traccia continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto. Zero merito e avanti gli yes men. Con quali devastanti effetti e risultati per la nostra competitività? Rispondo con una domanda: come mai ci sono così poche multinazionali italiane e logiche aziendalistiche italiane non funzionano al di fuori dei nostri confini? Domanda che rivolgiamo a tutti gli ascoltatori. Oggi seguiremo uno schema un po' diverso, andremo rapidi sulla tua storia per lasciare spazio al raffronto tra ambiente di lavoro in Italia e all'estero. Tutto parte per te con una laurea in geologia a Pavia, lontano dalla tua Valtellina, come una scelta fatta controvoglia ha poi segnato per sempre la tua vita. Ho trovato nell'ambiente internazionale quegli stimoli che non trovavo in Italia, come ad esempio una competizione sana che ti stimola a crescere confrontandoti continuamente con diverse persone. L'interesse nell'apprendere, anche se con molta fatica, nuove lingue, la curiosità di vivere in paesi con culture differenti. Che voto dai all'università italiana? Potrebbe essere un'eccellenza, ma purtroppo dipende dai singoli docenti, con molte valutazioni da 4 fino ad arrivare a 10 per pochi di loro. Metterò un secco 5 per il link tra il mondo del lavoro e università, si deve fare di più. Fresco di laurea mi accorsi di essere bollato dalla società come un povero dottore con un titolo da disoccupato. Ti chiedo cosa rappresentano i tirocini e i cococò per un neolaureato oggi? Il primo inserimento nel mondo del lavoro non devono essere affrontati con svilimento e dandone la colpa al sistema, ma bisogna cercare di uscirne il prima possibile una volta acquisita una certa esperienza e soprattutto avere il coraggio di cambiare ed accettare i rischi che ci possono essere nel commettere gli errori. Perché scegli un percorso militare all'inizio che ti porterà fino in Bosnia come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri? Fondamentalmente volevo scappare dai cococò non retribuiti, assolvere agli obblighi di leva soddisfando appieno la mia passione militare, costruirmi un CV e finalmente cercare un lavoro retribuito. E la prima svolta nella tua vita avviene alla vigilia della partenza, pensate, per l'Iraq. Una grande azienda italiana ti seleziona per curriculum. Allora, c'è qualche chance per chi non ha conoscenze in Italia? Sì, ci sono, ma non basta un semplice CV da 110 lode, serve un CV particolare, diverso dagli altri, che attiri l'interesse del reclutatore, ma soprattutto viene richiesta una flessibilità e una mobilità alle esigenze aziendali. 2 anni di sofferenza in Italia, poi finalmente all'estero per 4 anni in Egitto, ricordi. Vieni, va riconosciuto, notato come una delle migliori giovani risorse all'interno della società, tanto che vieni inserito in un master di 1 anno per lo sviluppo accelerato delle capacità manageriali. Eppure scopri presto come in Italia sia tutto un po' troppo forma e zero sostanza, che l'imprinting ufficiale sul percorso dei talenti, effettuato da un certificatore esterno, alla fine non conta. Allora, quali sono i due veri parametri decisivi nello stabilire i manager del futuro e quindi la classe dirigente del paese? 2 parametri non sono sufficienti, ma dovendo decidere do priorità ovviamente a meritocrazia e onestà. Questo in teoria, e nella pratica? Nella pratica quotidiana vale più il network di conoscenze che la conoscenza del lavoro. Vale di più il sapersi asservire alla volontà del superiore piuttosto che imporre la propria volontà. Il processo di selezione e percorso di carriera, per quanto hai sperimentato, lo hai definito una farsa allo stato puro, dove i predestinati tali rimangono. Dando per scontato il tuo espatrio, che tra poco raccontiamo, andiamo per capitoli, raccontando le differenze che hai riscontrato tra Italia ed estero. Partiamo dal contratto. Se vogliamo parlare dell'area di lavori, i francesi conoscono un bellissimo doppio termine inglese, work balance. Vale a dire lavorare in modo proficuo e sereno, con un giusto bilanciamento con i periodi di riposo, che ti permettono di avere una vita privata pur mantenendo alti livelli di lavoro. Questo si può fare anche perché la società è strutturata e organizzata. Quanto detto, non l'ho sempre riscontrato per la società italiana per cui lavoravo in precedenza. Modalità di lavoro, la logica del tanto al chilo, alla faccia della professionalità e degli obiettivi concreti. In Italia esiste, secondo me, una mentalità errata per la quale più ore si passano in ufficio e più si lavora. Questo perché i manager non vogliono usare in modo corretto gli strumenti atti a misurare le performance dei dipendenti, i cosiddetti MBO, e nei peggiori dei casi non nutrono fiducia verso i loro riporti. Con i francesi gli incarichi sono precisi e gli obiettivi realizzabili. Se riesci a fare tutto e bene rispettando le loro scadenze e non commettendo errori, la fiducia con i capi è immediata e l'ambiente di lavoro è sereno. Come tutto questo si riflette nel trattamento del personale? Non ti senti motivato e soprattutto rispettato come tecnico. Anzi, come si diceva quando ero in azienda, ti senti uno scoppiato. Questo in Italia? Questo in Italia, sì. Difatti prima vivevo la mia vita in azienda con delusione e frustrazione. Ora non più. Un punto chiave sono sicuramente le prospettive di carriera. Qui le strade Italia-estero sembrano divaricarsi e tanto. Come? In questo caso non è tanto un discorso paese, ma un discorso di diverse esperienze internazionali che arricchisce il proprio CV. Se poi si ha l'opportunità di lavorare in una struttura meritocratica con una programmazione di carriera trasparente, tanto meglio. Alla fine sbotti nella lettera che hai mandato a giovanitalenti@radio24.it. Le risorse umane in Italia sono veramente il lato peggiore dell'azienda. Perché? Quello che maggiormente ho sofferto è stata la mancanza di sincerità, il miraggio di promesse che non si avveravano. Forse non è colpa solo di loro, ma del sistema che devono rispettare, che comunque non giustifica quello che maggiormente mi infastidiva: il loro distacco verso, uso il loro termine, la risorsa umana. Che sarebbe anche lo scopo della loro stessa esistenza. Tutto, per chiudere in bellezza, si rispecchia, e qui una nota anche un po' ironica, nei pomposi meeting aziendali all'italiana, fiera delle vanità e delle incompetenze che combinano i galli. Proprio incompetenze no, però diciamo che in Italia ho assistito a troppi meeting fine a se stessi, utili solo a qualcuno per farsi bello. Spesso erano simili a talk show televisivi dove si cercava, e anche qua io mi metto in prima persona perché anch'io lo facevo, di mettersi in mostra facendo vedere quanto si era bravi, interrompendo il collega che parlava e copiando le idee degli altri, magari finendo la riunione senza che una vera decisione fosse stata presa. Intanto prima o poi qualcuno l'avrebbe presa durante la realizzazione del progetto. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Ed è così che un bel giorno, dopo un mese di missione in Congo e un altro contratto obbligato in Ghana, dopo aver visto scomparire migliaia di promesse e dopo essersi scontrato col sistema geriatrico gerarchiale dell'azienda, come lo definisci, spedisci il curriculum all'estero. Con quali sorprendenti risultati? Nel giro di un mese ho sostenuto 4 interviste via Skype per società diverse. Poi successivamente sono stato invitato e anche accoppolato nelle sedi di queste società per sostenere i colloqui finali. Mi si è aperto un mondo sconosciuto fino ad allora, quello delle opportunità di lavoro, dove le società competono fra loro per accaparrarsi i migliori tecnici e non al contrario vivere in un ambiente dove ti ritieni fortunato perché hai un posto di lavoro. Un ribaltamento di prospettiva a 180 gradi che temo sia molto comune ormai in Italia. Fra le varie offerte scelsi quella che meglio bilanciava la mia aspettativa di lavoro con quella familiare ed eccomi qui, dopo 2 anni, un montanaro in Africa, questa volta in Angola, concludi. Per chi lavori e a quali condizioni differenti dall'Italia? Con Total Exploration and Production faccio un lavoro considerato stressante e come tale un contratto in turnazione 28-28, vale a dire che faccio un mese di lavoro con reperibilità 24 su 24, 7 più 7, ma poi ho diritto a un mese di riposo con uno stipendio